известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Speak about the coup in Honduras, because this is, was a topic of conversation between myself and President Uribe. All of us have great concerns about what's taken place there. President Zelaya was democratically elected. He had not yet completed his term. We believe that the coup was not legal. Queste sono le parole di Barack Obama, con cui ha sancito, ha chiarito la posizione degli Stati Uniti d'America nei confronti del colpo di Stato che ha avuto luogo in Honduras. Ha detto chiaramente: il colpo di Stato per noi non è legale, consideriamo ancora perfettamente in carica Zelaya, il presidente eletto, il presidente che stava tentando di modificare attraverso un referendum la Costituzione honduregna. Soprattutto Barack Obama ha voluto mettere le mani avanti, chiarire con esplicita slancio esplicito, insomma, che tutto ciò che in diversi cominciavano a pensare, a supporre o anche a dire, nella fattispecie Hugo Chavez, che a più riprese aveva lanciato i suoi strali nei confronti della CIA come possibile animatrice, sostenitrice del colpo di Stato in Honduras, erano tutte notizie prive di fondamento e che la questione stava altrove. Noi ci siamo incuriositi attorno a questa storia più che altro per come ripercorre, per come ricorda un altro centro Sud America di cui forse si comincia ad allontanare, no, il ricordo, la memoria, gli andamenti. Erano storie da pieno XX secolo, un centro Sud America nel quale la regola del colpo di Stato era all'ordine del giorno. Quando le cose non marciavano nella direzione desiderata da parte di un gruppo di potere incisivo e capace di muovere le leve necessarie, arrivava puntualmente il colpo di Stato. Ne abbiamo seguite dozzine in altrettante nazioni del centro e del Sud America. Poi le cose sono cominciate a cambiare, eppure a rileggere oggi la catena di questi fatti, di queste vicende, si resta impressionati sia dal numero sia dalle ricorrenze, e una delle ricorrenze è proprio il ruolo delle potenze straniere nello svolgimento di queste fatti. E per quello che riguarda l'Honduras abbiamo provato dunque a informarci un po' più in profondità, a capire come starebbero le cose, quali sarebbero gli equilibri in gioco, insomma, non sottostare immediatamente a massimalizzare la notizia come il pericolo o l'avvento di un altro putsch, di un altro colpo di Stato in una nazione evidentemente dalla democrazia debole. E informandoci, leggendo o cercando di capire, si delinea in realtà una situazione un po' diversa, con un presidente, Zelaya, regolarmente eletto ma vicino al termine del suo mandato quadriennale, non rinnovabile, intenzionato però a forzare la mano agli eventi, forzare la mano soprattutto alla Costituzione del suo paese. Come? Indicendo un referendum che pare volesse avere soltanto un valore consultivo, capire insomma se da parte della maggioranza della nazione ci fosse interesse o addirittura entusiasmo per una sua eventuale rielezione a capo dell'Honduras. Di fatto la cosa non è piaciuta a molti, non è piaciuta a tutti coloro pensavano che in questo tentativo di prolungare il proprio mandato, come altri nomi ben noti del Sud America hanno fatto anche in tempi recenti, ci fosse in realtà l'ombra, no? Il filo rosso nascosto di un tentativo dittatoriale. dittatoriale o qualcosa che gli somigliasse, magari in una declinazione da XXI secolo. Di fatto Zelaya contava e conta sul sostegno di quella America Latina più autonomista, più staccata dai legami con l'America in genere e con le altre grandi potenze internazionali, quella che fa capo a una organizzazione che si chiama ALBA, laddove ALBA significa esattamente, adesso vi dico anche significa Alternativa Bolivariana per le Americhe, un'organizzazione ispirata per l'appunto dai principi di Simón Bolívar, il cui scopo è perseguire una solidarietà più ampia tra i popoli dell'America Latina e dei Caraibi, una specie di orgoglio latino. I sostenitori di questa organizzazione sono Chavez in prima persona e accanto a lui Fidel Castro. Poi c'è stata la recente adesione della nuova Bolivia di Evo Morales, poi il presidente di Nicaragua Ortega si è schierato con l'ALBA, poi sono arrivati Ecuador e tanti staterelli del Caribe come Grenadine, Antigua, Barbuda, San Vicente. Insomma, sta prendendo una sua forza, una sua impostazione, e non c'è da nascondere che una delle idee più importanti dell'ALBA, di questa visione che vuole centralizzare, no, il peso latino di queste nascenti democrazie, sta nelle forti personalità che di volta in volta, paese per paese, ne rappresentano l'anima, e Manuel Zelaya era esattamente quello che voleva essere, o comunque diventare, o comunque era quello in cui voleva evolversi nello stato dell'Honduras, che, badate, non è uno stato così piccolo come si potrebbe pensare a prima vista. Gli abitanti sono vicino agli 8 milioni, è uno stato in veloce espansione. E Zelaya sarà oggi alle Nazioni Unite, avrà un incontro con Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, raccoglierà probabilmente la solidarietà dell'Unione Europea, delle organizzazioni latinoamericane escluse dall'ALBA, nonché degli Stati Uniti, che, come avete sentito poco fa per bocca di Barack Obama, gli conferiscono comunque il loro sostegno, perché dicono che qualsivoglia fosse la finalità del referendum indetto da Zelaya, comunque questo è un colpo di Stato, ed è nella visione americana, nell'America di Obama, nella visione di una democrazia solida, robusta e moderna, un colpo di Stato non è dato esistere. Quindi tutte queste organizzazioni reclamano il ritorno al potere di Zelaya, che tra l'altro è stato arrestato in piena notte ed è stato espulso dal paese in pigiama, letteralmente. Questo raccontano le cronache dei reporter che gravitano da quelle parti. Badate che però è stato espulso su ordine della magistratura, che lo ha accusato di aver violato le leggi dell'Honduras e di aver tentato una revisione, un attacco alla Costituzione, motivo per cui andava a costituire un pericolo per la stessa democrazia nicaraguense. Infine, ultimo personaggio da presentare in questo scenario che dovrebbe essere in rapida evoluzione, ovvero è assai probabile che Zelaya raccoglierà questo appoggio e poi tenterà il rientro nel paese, e questa è chiaramente la fase più critica, perché si potrebbero anche prospettare i termini di una guerra civile. Tra l'altro, una agenzia appena uscita dice che è urgente e necessario che i paesi dell'Unione Europea richiamino per consultazioni i loro ambasciatori in Honduras, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Miguel Ángel Moratinos in conferenza stampa. Precedentemente aveva definito, sempre Moratinos, una farsa la nomina di Roberto Micheletti a presidente ad interim al posto di Zelaya, perché secondo il capo della diplomazia spagnolo è necessario mostrarsi a questo punto estremamente fermi nell'esigere il reintegro nelle prossime proprie funzioni di Zelaya, che avrebbe già annunciato il suo ritorno in Honduras per giovedì, quindi dopodomani, momento, ripeto, topico, momento zenith di crisi, perché a quel punto ci saranno due pretendenti alla stessa poltrona, come titolano tra l'altro molti giornali sudamericani. Vi dicevo di questo Roberto Micheletti, designato presidente dell'Honduras pro tempore, perché la prima cosa che Micheletti ha detto agli abitanti della sua nazione è che non intende minimamente modificare il corso delle elezioni presidenziali che sono previste per fine anno e che metterebbero per inizio 2010 un nuovo presidente a capo della nazione. La cosa interessante è che Micheletti è nato nel paese centroamericano ma ha passaporto italiano. Le fonti di Tegucigalpa fanno sapere che il padre di Micheletti era nato a Bergamo ed era tra l'altro gran tifoso dell'Atalanta, dei neroazzurri orobici. Il nuovo presidente ad interim honduregno parlerebbe perfettamente l'italiano e avrebbe anche parte della sua famiglia a Bergamo, quindi c'è comunque un, come dire, una partecipazione, per quanto inconsapevole, non voluta, del nostro paese a questa storia. Le fonti precisano anche che il padre arrivò in Honduras, il padre Micheletti, molti anni fa, dopo la guerra. Lo stesso Micheletti è considerato a tutti gli effetti un veterano della politica honduregna. Vi volevo dare, per chiudere questo quadro, così pensiamo di avervi spiegato un po' meglio che cosa sta succedendo, quindi è un colpo di Stato, ma è un colpo di Stato sui generis, è un colpo di Stato che invoca almeno l'etichetta di difesa della democrazia. In sostanza si accusa Manuel Zelaya di essere lui, colui che tentava, attraverso questo prolungamento, eventuale consultazione referendaria per un prolungamento della sua presidenza, tentava di accentrare sul modello di Chavez il proprio ruolo come anima e non solo come presidente della nazione honduregna, e quindi i responsabili del colpo di Stato avrebbero messo in atto il loro progetto per tenere l'Honduras vicino a un proposito democratico più normale. Il commento di Fidel Castro è pesante, definisce il golpe contro il presidente Zelaya un errore suicida, qualifica l'organizzazione degli Stati americani che ha condannato il colpo di Stato come una istituzione preistorica. Chavez minaccia intervento militare, come vi dicevo, vi stiamo raccontando questa storia perché a breve veramente la temperatura potrebbe diventare rovente dalle parti di Tegucigalpa. La Razón, un quotidiano, il più importante quotidiano boliviano, titola: il mondo respinge il golpe in Honduras, i militari cacciano Zelaya, Chavez e i suoi alleati cercheranno di reinsediarlo. Questo è il titolo invece del giornale ecuadoriano El Universo. Sul nicaragüense La Prensa, tra l'altro Nicaragua è lo stato dove in questo momento si troverebbe Zelaya, ovvero da dove Zelaya farebbe base per poi mantenere i propri contatti con le Nazioni Unite, che sono in questo momento il suo l'ente che principalmente garantisce il proseguimento della sua presidenza. Vi dicevo, il nicaragüense La Prensa titola: due presidenti per una poltrona. La Tribuna, invece, che è il più importante giornale dell'Honduras, titola: il paese in allarme per le ingerenze di Chavez. Tiempo, altro giornale honduregno, sottolinea come sia l'OSA che gli Stati Uniti, sia l'Organizzazione degli Stati Americani e degli Stati Uniti abbiano condannato il colpo di Stato, con Washington che riconosce, come ci ha detto Barack Obama in apertura del programma, che Zelaya resta l'unico presidente dell'Honduras. Sono i vostri messaggi che hanno reagito, prendono posizione riguardo alle notizie sull'Honduras, molto divertente quello scritto da Egidio, che si augura che Micheletti non sia parente di Calderoli perché potrebbe cambiare la legge elettorale ed emanare il puercos, va bene. Poi Ale cita l'uccisione di Cesare, Simo si incavola e dice: quindi, visto che uno è democraticamente eletto, può fare quello che vuole, rivolto credo più a Obama che al sottoscritto, insomma, e alla presa di distanza della Casa Bianca, che non vuole neanche sentire l'odore di golpe CIA al XX secolo. E servizi segreti americani. In Honduras non è stato un golpe, precisa Stefano da Roma, ma un esautoramento di Zelaya. Il governo è restato in carica. Sembra che molte urne contenessero già schede votate. Beh, insomma, non sarà stato golpe, ma di fatto in pigiama hanno caricato il presidente su un aereo e gli hanno dato un calcio nel sedere. Qualcosa che gli somiglia, bene o male, potrebbe anche essere. Abbiamo in linea, in realtà, per parlare di un altro argomento che ben conoscete, Iraq, 30 giugno. Ma abbiamo in linea intanto Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali. Ne approfittiamo anche a questo punto della sua esperienza per chiedergli anche un parere professionale sulla giusta definizione di quello che è successo in Honduras. Andrea, è definibile golpe oppure qual è il nome esatto per la storia che è andata in scena nel paese centroamericano? Innanzitutto buongiorno, buonasera a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie. Definirlo una scalzonata mi sembra un po' pochino. Se mi caricano di notte facendo il presidente, mi caricano di notte su un aereo, mi cacciano via, non saprei quale altro. Beh, forse golpe non piace, chiamiamolo colpo di Stato, che è la stessa cosa. Quindi. Ma perché c'è in realtà questa grande rincorsa, no? un po' pompieristica di questo presidente ad interim Micheletti e un po' degli ambasciatori honduregni nel mondo a dire: guardate che lo abbiamo fatto per proteggere la democrazia. Però questo lo dicono tutte le volte, mi sembra. Sì. Bisognerebbe chiederlo a quello che hanno caricato sull'aereo se era tanto contento di farsi proteggere mandandolo via. Insomma, certo. Di regola un presidente lo si protegge aumentandone la sicurezza e non esautorandolo. Questa è perlomeno la mia sensazione. Dunque, tra l'altro dovrebbe essere arrivato in linea anche Alberto Negri, inviato il Sole 24 Ore dal Medio Oriente. Oggi abbiamo due storie che corrono parallele, legate poi da una specie di notizia ponte, che è quella secondo la quale gli Stati Uniti non hanno nell'immediato piani per rilanciare con l'Iran colloqui sull'Iraq, come dire, troppe padelle sul fuoco forse per l'amministrazione americana sul fronte internazionale, ma in Iraq, con la morte di 4 Marines uccisi in combattimento in una situazione sulla quale per ora viene mantenuto il segreto, insomma, comunque era quasi prevedibile che ci fosse l'ultima recrudescenza, ma di fatto è in atto il ritiro. Vogliamo provare prima Andrea, poi sentiamo anche Negri, a spiegare che cos'è esattamente questa prima fase di ritiro, questa uscita uscita dell'esercito americano dalle città, che poi corrisponde al lancio di una festività nazionale da parte degli iracheni, che ritrovano parte del loro orgoglio. Alle cifre straordinarie vengono rese note delle nuove forze irachene pronte a prendere il posto degli americani, a Petraeus che torna in scena per supervisionare tutta l'operazione. Diamo la dimensione, ma soprattutto la realtà di questa storia che comincia oggi, Marcelletti. Allora, innanzitutto un saluto al mio amico Alberto Negri. Diciamo che gli americani se ne erano già andati. Certo. È stato poi il surge di Petraeus a farli ritornare per strada in mezzo alla gente, anche se ho la sensazione che buona parte del merito più che ai tanti soldati americani spiegati per strada sia ad accreditare alle operazioni speciali fatte dal generale McChrystal, che poi peraltro è stato mandato a cercare di trovare una difficile soluzione in Afghanistan adesso. Certo. Gli americani si ritirano nelle città, pronti ovviamente per ritornare, perché in qualche maniera il governo iracheno deve prendere coscienza delle proprie capacità, delle proprie forze. Su questo punto io ho grandi speranze, ma altrettanto ancora più forti timori. Certo. Mi pare che le forze armate irachene siano il dispositivo di sicurezza iracheno, quindi non soltanto le forze armate ma anche le forze di polizia, che nel corso degli anni sono state pesantemente infiltrate dai gruppi radicali sciiti, soprattutto quello di Muqtada al-Sadr, non siano ancora pronte per garantire sufficienti margini di sicurezza. Ma è anche pur numericamente impressionanti, 750.000 sarebbe il numero di militari e poliziotti iracheni che garantiranno la sicurezza delle città, è un numero importante. È un numero importante, ma io continuo a ritenere che la qualità sia decisamente superiore al valore della quantità, perché altrimenti insomma le cose sarebbero, in tanti altri paesi le cose sono così, guardiamo soltanto anche in Afghanistan, i numeri delle forze armate, forse a disposizione del governo sono rilevanti, ma se non ci fossero quelli a coalizione internazionale il paese sarebbe nel caos, certo, o perlomeno certo, sarebbe stabilizzato in mano a qualcun altro. Quindi c'è da sperare che l'odio settario non ritorni. Certo che fa pensare al fatto che un grande alleato degli Stati Uniti come l'attuale Iraq festeggi in realtà, certo, con grande gioia il fatto che gli americani in una qualche maniera si sono tolti da sotto la vista di tutti. Beh, diciamo, prendiamola come una manifestazione appunto di orgoglio, no? di ritrovato sapore dell'indipendenza, ma la prevedibile, adesso io non voglio fare lo stratega perché non lo sono, ma la prevedibile recrudescenza, che già si sta manifestando peraltro, di attentati, di attacchi, di scene di sangue nei giorni a venire, che cosa provocherebbe, Andrea? Cioè, gli americani precipitevolissimamente rientrerebbero nelle città, riprenderebbero postazioni o starebbero comunque a guardare, perché questa è la strategia di uscita? Credo che al momento starebbero a guardare. Ricordiamoci soltanto una cosa, e con questo poi passo la parola, certo. Che c'è un problema economico molto forte, cioè il petrolio sta in mano agli sciiti del sud e ai curdi al nord, certo, e i sunniti, che per anni hanno gestito il potere del paese pur essendo un'assoluta minoranza, non si sentono garantiti, quindi finché non ci sarà una chiarezza assoluta come potranno vivere e mantenersi, certo, i sunniti da parte centrale del paese, e peraltro gli sciiti del blocco di Sistani sono più favorevoli rispetto ai curdi di dare i soldi ai sunniti, insomma, finché non ci saranno delle chiare camere di compensazione economica, la situazione è destinata a rimanere estremamente difficile. Ecco, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, autore tra l'altro del Il Turbante e la Corona, Iran 30 anni dopo, appena uscito da Tropea. So che Margelletti ha usato una parola che come dire, ti suona molto familiare alle orecchie in questi giorni di lavoro: petrolio. Non a caso lo stesso al-Maliki, no? Anche trionfalmente ha aperto, no? questa grande asta a tutto quel petrolio su cui dice l'Iran è seduto sopra. È come se ci fosse una specie di ripartenza, no? In questa giornata strana per l'Iraq, Alberto. Ma è una giornata dove gli iracheni festeggiano la dipartita dalle città degli americani, che ne resteranno comunque 120-130 mila, credo, dentro al paese, quindi un buon numero, da qui al 2011, quella data in cui ci dovranno poi ritirare completamente, e allo stesso tempo festeggiano al-Rashid, questa grande asta sul petrolio, che però sta andando in luccio, perché c'è stato un grande contratto che si è aggiudicato la British Petroleum, la BP inglese, la CNPC cinese, sui pozzi di Rumaila, che sono nel sud, tra l'altro al confine con Kuwait, pozzi di Rumaila che dovrebbero evocare peraltro la guerra del 91, quando ci fu la contestazione anche tra le due parti di questi pozzi sollevata dall'Iraq. Ma la cosa interessante è che molte compagnie hanno rinunciato a stringere i contratti e a firmarli perché i posti dagli iracheni erano troppo alti. Insomma, sei anni dopo, dal 2003, dalla conquista americana, dall'occupazione americana più che conquista, quando si parlava delle grandi, magnifiche sorti progressive del petrolio iracheno, questo barile iracheno appare invece piuttosto dimezzato. Prima di tutto perché la produzione si aggira ancora intorno ai 2 milioni e 3, 2 milioni e 4 di barili, che è una cifra modesta per un paese con le risorse enormi dell'Iraq, seconde solo forse a quelle dell'Arabia Saudita. E poi perché i grandi investimenti dovrebbero decollare adesso, ma si vede che fanno fatica, come dire, a decollare dalle ultime notizie. Quindi anche tutte quelle previsioni, non so se vi ricordate, fra l'epoca di Bush, della vigilia della guerra, quando si parlava del fatto che la conquista irachena avrebbe portato un mare di petrolio all'Occidente, forse si rivelano più difficoltose, anche perché ci sono dei motivi politici forti. Cosa vogliono dire tutti questi contratti dove c'è dentro una compagnia occidentale e una asiatica, in genere cinese o malese? Vuol dire che l'Iraq non vuole prendere troppo posizione a favore dell'Occidente, certo. È evidente, vuole compensare, vuole bilanciare, in più ha timori, appunto, come diceva prima anche Andrea molto bene, a nord ci sono i curdi che vogliono il loro petrolio, a sud ci sono gli sciiti che vogliono gestirsi il loro, quindi c'è una grandissima difficoltà in realtà a fare di questa giornata dell'indipendenza, anzi della sovranità nazionale, come la chiamano loro, anche la festa del petrolio. Ecco, Alberto, rapidamente poi c'è una notizia del traffico, perché non è un caso, no, che quest'asta vada in scena nel giorno in cui gli americani, come dire, escono di scena. Ma no, ma certamente il simbolo è questo, certo. Giornata della sovranità nazionale, certo. Giornata in cui noi facciamo vedere che vendiamo il nostro petrolio, certo. E lo aggiudichiamo alle compagnie che vincono gli appalti secondo i nostri standard. Bene, bene, se Alberto Negri e Andrea Margelletti pazientano un attimo le notizie del traffico e poi torniamo a discutere. Walking through the highs. Ringrazio Alberto Negri e Andrea Margelletti della pazienza per essere rimasti in attesa per concludere la nostra conversazione. Io vorrei riprendere il filo del discorso da dove l'ho introdotto, ovvero da queste dichiarazioni di Christopher Hill, l'ambasciatore statunitense a Baghdad, che parla proprio di immediato futuro di quella vicinanza così perigliosa fra Iran e Iraq. La Repubblica Islamica sta ancora cercando di esercitare una influenza malevola sul paese vicino, dice Christopher Hill, ma è fiducioso che gli iracheni non lo assecondino. L'esercito statunitense accuserebbe l'Iran di appoggiare le milizie sciite in Iraq con addestramento e armi. Teheran naturalmente nega ogni accusa. Io tornerei a Margelletti in un minuto. Abbiamo ridisegnato in questi ultimi giorni, no, seguendo l'elezione di Ahmadinejad e poi i fatti di oggi, che da oggi inaugurano un Iraq diverso, questa relazione pericolosa. Quali sono, Andrea, le possibili evoluzioni? Innanzitutto ho il timore che tutti noi ci illudiamo che ci sia uno scontro tra chi vuole l'oscurantismo e, come Ahmadinejad, e invece un laico liberal alla Kennedy come Mousavi. In realtà lo scontro è tra due esponenti religiosi che sono Rafsanjani e Khamenei. Quella è la partita. Prima noi comprendiamo questo, meglio è e minor danno facciamo. E soprattutto, ed è un tema con il quale credo Alberto ne convenga con me, cerchiamo di stare molto molto attenti alle emozioni e alle immagini che arrivano da... Cosa vuoi dire, Andrea? Vuol dire che in un paese che ha un ferreo controllo sull'informazione, su tutte le metodologie di informazione, non bisogna lasciarsi ingannare da questo scoppio immediato di immagini che arrivano, perché può darsi che siano parte anche di una politica iraniana, da parte di uno o da parte dell'altro. Alberto? Allora, questa è la mia sensazione. Alberto, per concludere, che dici anche riguardo a questa ipotesi formulata da Andrea Margelletti? In realtà, avendo visto crollare il regime di Saddam Hussein e avendo assistito a tante di queste battaglie medio orientali, questa sull'Iran mi sembra una partita molto complessa. Una partita molto complessa dove si possono leggere molte cose. Una è il fatto che c'è, ormai è chiaro, un vento di restaurazione. Forse il compito di Rafsanjani oggi è più che quello di combattere contro Khamenei, di cercare di tirare fuori dalla galera quelli che sono andati sventolando le bandiere verdi e che oggi soffrono e penano dietro le sbarre di Evin, il supercarcere di Teheran. E poi il fatto che forse c'è sì stata una prova di forza di questo Ahmadinejad, no? Che evidentemente ha un progetto autocratico, però questa prova di forza può essere anche intesa come un segnale anche di debolezza, cioè il fatto che queste elezioni siano state arrangiate palesemente con dei brogli, che questo non sia stato accettato, che abbia provocato tutte quelle proteste di massa, in qualche modo fa anche capire comunque che questo sistema iraniano tanto perfetto non è e ha difficoltà probabilmente a riproporsi nello stesso modo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Certo, per esempio l'Iraq potrebbe essere un banco di prova per capire se loro continueranno a esercitare quel tipo di influenza che sono riusciti a esercitare fino ad oggi. In realtà l'Iran si proponeva come una repubblica islamica, per nulla perfetta, con tutte le cose del caso, però a un certo punto era forte la sensazione che comunque ci fosse un consenso abbastanza coeso intorno a questo regime, anche per interessi, per cose, eccetera. Queste manifestazioni in realtà hanno messo seriamente in forza. Certo, certo. Va bene, io ringrazio delle loro analisi, spero continueranno nei prossimi giorni, Alberto Negri del Sole 24 Ore, Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, che so tra l'altro in imminente partenza per l'Afghanistan, e cose ci potrà magari anche raccontare da quella terra. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi. Andiamo in replica straordinariamente questa sera alle 21:15, la diretta invece come sempre dopo le 4 domani qui su Radio 24. Ci sentiamo.